Mercato Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ma ci sono, io ci sono, sono il padre, il papà ormai unico fondatore, sono lì, ci sono. Vogliamo aprire un po' la strada, parliamo tutti di giovani, i nostri giovani, contro i giovani ci sono, ed è bello guardare e proteggere. Grillo, Beppe Grillo, cara ascoltatrice e cari ascoltatori, protagonista insieme al Movimento 5 Stelle di questa giornata che vede appunto il Movimento aver concluso le primarie per il candidato Premier. Mistero, chi sarà saprà domani a Rimini. Oggi è iniziata questa kermesse di tre giorni del Movimento a Rimini e per l'altro verso appunto questa grande festa Italia a 5 Stelle, dove pare che vi sia un colpo di scena, non so se definirlo così, insomma Roberto Fico probabilmente non avrà il suo spazio sul palco. Queste sono indiscrezioni, però pare che confermi un po' il gelo che c'è tra Roberto Fico, considerato leader degli ortodossi del movimento, e i vertici del Movimento 5 Stelle. Insomma, quindi ci occuperemo senz'altro di politica italiana questa sera, poi invece di politica europea e britannica, perché la prima ministra Theresa May della Gran Bretagna oggi ha scelto Firenze per fare il suo discorso, per cercare di sbloccare questo percorso che deve portare al divorzio della Gran Bretagna dall'Unione Europea. E poi c'è un argomento spinoso, che è quello del PFAS, queste sostanze che servono per rendere impermeabili giacche, abbigliamento vario, ma anche per il rivestimento delle padelle antiaderenti o per la sciolina degli sci, che pare da tempo stiano inquinando parte delle falde del Veneto e non soltanto. E c'è questo scontro in atto tra il presidente della regione Veneto Zaia e il governo. Ce ne occuperemo. Per i vostri commenti, ve lo ricordo, ci sono due canali privilegiati: sono la pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS, che è sempre 349-238-6666. Quindi intanto sintesi della giornata. Brexit, la prima ministra britannica May parla a Firenze, apre l'Unione Europea, chiede 2 anni per dirsi addio, garantisce i diritti dei cittadini europei e gli italiani, dice, restate in Gran Bretagna. Movimento 5 Stelle al via la kermesse a Rimini, si parlerà di Rai, ma pare che Roberto Fico non sarà sul palco e Grillo dice, si apre una nuova stagione, io sarò il papà di tutti. Crisi nordcoreana, Kim insulta Trump, minaccia di fare il test della bomba H nel Pacifico, il presidente americano replica, sarà messo alla prova come mai prima. L'omicidio di Gloria Rosbock, 30 anni, all'ex allievo accusato del delitto, 19 al presunto complice, la madre rinviata a giudizio. Licata, minaccia di morte alla commissaria antiabusivismo, lei a Radio 24 dice questa volta ho paura. Veleni, PFAS nell'acqua, scontro tra Veneto e governo sui limiti tollerabili. Sanremo, Claudio Baglioni, direttore artistico, è verso la conduzione del festival. Sport, in Serie A Tegola sul Benevento, il capitano Lucioni positivo al test antidoping. Per la pallavolo, esordio vincente per le azzurre del volley all'Europeo 2017. Partiamo quindi appunto dalla Brexit. La prima ministra britannica ha scelto Firenze per il suo discorso, perché culla del Rinascimento e quindi lei dice dell'apertura mentale che ci porta verso il futuro senza pregiudizi. Discorso in cui cerca di sbloccare lo stallo dei negoziati con Bruxelles. May apre all'Unione Europea, indicando una transizione di 2 anni prima della Brexit, e poi a nome della Gran Bretagna offre piena garanzia sui diritti dei cittadini europei. All'Europa chiede un accordo creativo sulle nuove relazioni, invita gli italiani a restare, dice siete preziosi, lasciamo l'Unione ma non lasciamo l'Europa. Poi ci torniamo su questo argomento. Intanto l'Europa è alle prese con la questione catalana. In Spagna un tribunale di Barcellona ha ordinato di rimettere in libertà provvisoria gli ultimi 6 dei 14 dirigenti dell'amministrazione catalana arrestati mercoledì scorso. Sono indagati per disobbedienza, abuso di potere e presunta malversazione per l'organizzazione del referendum che si dovrebbe tenere il 1 ottobre. La procura dello Stato spagnolo ha denunciato per presunta sedizione anche i manifestanti, fino addirittura a 40.000, che mercoledì sera si erano concentrati davanti alla sede del Ministero dell'Economia di Barcellona per protestare contro il blitz. E così arriviamo alla politica italiana. Il Movimento 5 Stelle in primo piano, concluse le primarie online per la scelta del candidato Premier. tra gli otto in corsa, tra cui Luigi Di Maio. Domani ci sarà l'annuncio del vincitore proprio a Rimini, altissima la partecipazione secondo il blog di Grillo, e oggi ha aperto i battenti Italia 5 Stelle, la festa del Movimento 5 Stelle appunto a Rimini. Sul palco non ci sarà quasi sicuramente Roberto Fico, che sembrava certo dovesse parlare di telecomunicazioni e informazione nelle vesti di presidente di vigilanza della RAI, una scelta che conferma quindi i rapporti decisamente tesi con i vertici del Movimento. Anche questo sarà tra poco, come vi dicevo, tema di approfondimento. Intanto c'è da dire che i grillini, per quanto riguarda la legge elettorale, sono contrari a questa proposta del PD, tiene invece l'intesa tra PD e Forza Italia. Sul fronte economico ancora qualche ora per le novità sulla manovra. Un rinvio a domani, quello della nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, che si è reso necessario per rivedere le stime su crescita e debito in base ai dati macroeconomici consolidati diffusi dall'Istat relativi agli ultimi due anni. L'Istituto di Statistica rivede allora a rialzo il PIL nel 2015, lo conferma per il 2016, ma soprattutto indica un debito su PIL in calo lo scorso anno al 132%, decimali in meno che potrebbero rendere ora più ampi i margini di manovra del Tesoro, anche se il ministro dell'economia Padoan ha più volte ribadito che i paletti del quadro di finanza pubblica non saranno toccati. Che la ripresa sia in atto è comunque una realtà e troverà conferma nelle nuove stime del DEF, che, lo ricordiamo, saranno alla base della manovra per il prossimo anno. Il PIL 2017 all'1,5% dovrebbe ripetersi anche nel 2018, con il deficit poi in calo rispetto a quest'anno. Quanto alla manovra, Palazzo Chigi punterebbe ad avere più assunzioni stabili, verrebbero penalizzati rendendoli meno convenienti i contratti a termine, con un rialzo dell'aliquota contributiva aggiuntiva. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi parliamo di lavoro e giovani, anzi sono stati il tema nelle parole di Draghi a Dublino, del presidente della Banca Centrale Europea. La segmentazione del mercato del lavoro e una scarsa formazione professionale, ha detto, sono tre principali motivi dell'elevato tasso di disoccupazione giovanile persistente in diversi paesi come Italia, Grecia, Spagna e Portogallo. Many young people in the euro area are still in education. Più in generale, secondo il presidente della Banca Centrale Europea, i giovani non vogliono vivere con i sussidi, ma lavorare e allargare le proprie opportunità. E adesso questo nuovo scontro tra la Regione Veneto e il governo. Prima il primo era sui vaccini, vi ricordate, qualche settimana fa, adesso questa nuova polemica invece sul delle sostanze a rischio salute disperse nell'acqua. La Regione Veneto rivedrà in autonomia i limiti di PFAS presenti nell'acqua, ovvero gli impermeabilizzanti che servono per giacconi, smartphone e pellicole antiaderenti. La decisione, presa da Zaia, presidente del Veneto, arriva dopo che lunedì scorso il Ministero della Salute ha respinto la proposta di realizzare una direttiva nazionale e un conseguente monitoraggio in tutto il paese. Il governatore Zaia: se ci fosse un limite nazionale ci aiuterebbe molto di più. Il problema PFAS è concentrato solo nelle quattro province di Vicenza, Rovigo, Venezia e Padova, ha scritto la Direzione Generale della prevenzione sanitaria, derubricando la questione a problema locale a cui si è fatto fronte da subito, ha detto la ministra Lorenzin. Io come ministero ho stanziato le risorse che erano quanto aveva sostenuto come spesa la Regione Veneto. Eppure esiste uno studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche fatto nel 2013 che ha esteso la questione ad altri territori nazionali: Santa Croce sull'Arno, in provincia di Pisa, il sottobacino Adda Serio in Lombardia e una vasta area nell'Alessandrino. Nelle province di Vicenza, Rovigo, Venezia e Padova certo il problema è molto sentito, anche perché in quell'area, a Trissino, in provincia di Vicenza, sorge la multinazionale che produce PFAS. L'ultimo prelievo di campioni di acqua potabile raccolti lo scorso aprile in 18 scuole primarie e 7 fontane pubbliche in queste province ha rivelato un superamento dei limiti ritenuti sicuri per la salute in Svezia e negli Stati Uniti. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E con un'esperta qui a Effetto Notte, tra poco, insomma, nel corso di questa puntata, cercheremo di capire meglio di che sostanze effettivamente si tratti e anche quali possono essere i reali rischi per la salute. Intanto spostiamoci sulle notizie dall'estero con la crisi nordcoreana. La Corea del Nord minaccia di testare la bomba H nel Pacifico. Il leader Kim Jong-un ha definito Trump un folle e ha aggiunto che il presidente americano pagherà caro per le sue minacce. Trump, da parte sua, ha risposto con un tweet scrivendo: Kim Jong-un, che è chiaramente un pazzo a cui non interessa fermare o uccidere il proprio popolo, verrà messo alla prova come mai prima è successo. Il mondo naturalmente è in tensione, la Cina chiede di mantenere la calma e di evitare sanzioni unilaterali. E ora di nuovo in Italia con la cronaca. L'omicidio di Gloria Rosbock è stato condannato a 30 anni. Gabriele De Filippi, il 22enne accusato dell'omicidio della sua ex insegnante, rinviata a giudizio la mamma, Caterina Battista, 19 anni invece per il presunto complice, Roberto Obert, di 54 anni. Secondo l'accusa, Gloria Rosbock voleva denunciare il suo ex allievo per una truffa da 187.000 euro. Sparì il 13 gennaio 2016, lei fu ritrovata il 19 febbraio nella cisterna di una discarica abbandonata. Ci voleva l'ergastolo, ha commentato l'anziana madre della vittima. E adesso in Sicilia per il messaggio intimidatorio arrivato a Maria Grazia Brandara, 61 anni, che è commissaria straordinaria antiabusivismo a Licata, in provincia di Agrigento in Sicilia, dopo la sfiducia votata al sindaco Angelo Cambiano. La Brandara è intervenuta da Effetto Giorno, sentiamola. Il rispetto delle regole è così, senza se e senza ma. Non ci sono dubbi che va proseguita l'azione che i tecnici e gli uffici stanno portando avanti. E io guardo, tra l'altro sono il commissario che ha messo pure i soldi per queste demolizioni nella precedente esperienza al comune di Licata, prima che si insediasse il sindaco Cambiano, al quale va il mio saluto e il mio affetto, ovviamente. Quindi non è, per me è una cosa normale, la mia vita è stata improntata rispetto alla legge, ma anche a farle rispettare. Quindi non ci può essere nessun atto che possa fare tornare indietro, se non se c'è una legge che modifica la legge in atto e un altro paio di maniche. Ma lì stiamo parlando, ricordo a tutti, di sentenze definitive. E di rispetto, di rispetto delle regole. E adesso parliamo invece di violenza sessuale, di tutte le violenze abbiamo parlato costantemente in questi giorni e questa settimana, ma per un caso particolare, perché un uomo di 46 anni, residente nel Potentino, è stato condannato dal Tribunale di Potenza a 7 anni di reclusione per violenza sessuale su una donna di 23 anni incinta. Ma la cosa particolare è che la vicenda risale al 2008, quindi ci hanno messo per condannarlo quasi 10 anni. L'uomo, secondo quanto emerse dalle indagini, stuprò la donna incinta, costringendola a subire un rapporto sessuale dopo averla minacciata di morte. Dopo 10 anni arriva questa condanna a 7 anni. Cinema è stata concessa oggi a Colin Andrew Firth la cittadinanza italiana, lo fa sapere il Ministero dell'Interno. L'attore, che premio Oscar per Il discorso del re, rivela che ha detto il Viminale, questo l'ha rivelato, che ha sposato una cittadina del nostro paese e ha dichiarato in più occasioni il suo grande amore per il nostro paese. Rimaniamo sullo spettacolo con Sanremo. Claudio Baglioni, ve lo dicevo già parecchi giorni fa, così ufficiosamente, sarà direttore artistico e conduttore del festival in una squadra che si va ancora delineando. Manca ormai soltanto l'ufficialità, quanto si apprende nelle ultime ore si è lavorato ai dettagli del contratto in linea con la nuova policy aziendale. Il compenso dovrebbe prevedere, come per tutti gli altri artisti Rai, un taglio di almeno il 10% rispetto al cachet percepito lo scorso anno da Carlo Conti, si parlò di 650.000 euro. Per chiudere lo sport, esordio vincente per le azzurre del volley all'Europeo 2017. Le ragazze di Mazzanti hanno sbaragliato la padrona di casa con un 3-0, lasciando le georgiane sempre una decina di punti più indietro. Sabato poi l'Italia sarà di nuovo in campo con la Bielorussia, già battuta a giugno al girone di qualificazione con un altro 3-0 senza difficoltà. E poi invece per il calcio in Serie A, Tegola sul Benevento, il capitano Lucioni positivo al test antidoping. Bene, questo il riassunto della giornata. Adesso cominciamo allora con gli ospiti tra pochissimo per approfondire alcuni temi. Per i vostri commenti, ve lo ricordo, 349-238-6666 oppure la pagina Facebook di Effetto Notte. Clotilde dice: cara Roberta, sono disgustata da tutti i partiti o movimenti che siano 67 anni quando sarà la prima volta che non andrò a votare. Questa sarà la prima volta. Il mio partito è stato distrutto dall'abusivo, sono veramente a terra. Ciao, buon fine settimana, a tra poco. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova, pantera.it col TH. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti tutti da ascoltare, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Roberta Giordano sempre con voi tutte le sere per farvi la sintesi della giornata, in modo che possiate essere informati su tutto quello che è successo di più importante all'Italia e all'estero, e poi naturalmente vari argomenti da chiarire, da approfondire insieme agli ospiti. Quindi cominciamo con il primo, parleremo tra pochissimo di politica italiana. Abbiamo detto protagonista oggi sicuramente il Movimento 5 Stelle. Se non avete acceso puntualmente alle 21, lo sapete che vi ricordo i titoli principali, qualcuno gradisce, qualcuno meno, ma insomma non tutti accendono puntualmente alle 21, non tutti presenti all'appello, cercate di essere puntuali. Allora, questi i fatti principali di oggi. Al via la festa del Movimento 5 Stelle a Rimini, niente palco per Fico, Grillo dice si apre una fase nuova, quella dei giovani, io sarò il papà di tutti. E poi la prima ministra britannica May oggi a Firenze col suo discorso sulla Brexit apre all'Unione Europea, dice servono 2 anni per dirsi addio, garantisco sui diritti dei cittadini europei e in particolare gli italiani, dice restate in Gran Bretagna. Continua lo scambio di minacce tra il dittatore nordcoreano e Trump, Kim Jong-un insulta il presidente americano, dice minaccia un test della bomba H nel Pacifico, Trump risponde il dittatore sarà messo alla prova, come mai è successo prima. E poi per la cronaca italiana l'omicidio di Gloria Rosbach, 30 anni all'ex allievo della insegnante, e poi 19 il presunto complice, mentre la madre dell'omicida è stata rinviata a giudizio. Veleni PFAS nell'acqua, scontro tra Veneto e il governo sui limiti. Zaia dice faremo da soli, il ministero dice autonomo allora solo sui vaccini. E poi Sanremo con quasi l'ufficializzazione che Baglioni, oltre al direttore artistico, sarà anche conduttore, dovrebbe prendere il 10% in meno di conti di quello che prese nel 2017. E poi vedo una notizia di adesso, Porto Rico, una diga sta cedendo al via l'evacuazione, il governo dice estremo pericolo, scappare il prima possibile. Quindi dicevamo, Movimento 5 Stelle oggi a tutto tondo protagonista, perché si sono concluse le primarie online per la scelta del candidato premier. Erano 8 i candidati in corsa, tra cui Luigi Di Maio, e solo domani si saprà ufficialmente chi è il vincitore. Nessuno ovviamente sa chi potrà essere, tutti ignorano il nome del vincitore. E, comunque Grillo sul suo blog ha detto che è stata altissima la partecipazione degli attivisti, degli iscritti online in questo voto, e che ha annunciato anche denunce per tentativi, dice, di un attacco da parte di hacker. Ha rivendicato di aver consentito una consultazione aperta a tutti gli iscritti, critica i media dicendo ci hanno denigrati soltanto a fini politici. Intanto l'altro aspetto importante è che oggi è partita la kermesse del Movimento 5 Stelle a Rimini, la festa che si intitola Italia 5 Stelle, ma pare, cara Barbara Fiammeri, ciao Barbara. Ciao a tutti. Nostra commentatrice del Sole 24 Ore, che vi sia un colpo di scena. In realtà non so se era una cosa già nell'aria, Roberto Fico, che è considerato leader dell'anima degli ortodossi all'interno del movimento, non sarà sul palco, ma pare non per volontà sua, ma quasi per punizione, perché si sarebbe sfilato nei giorni scorsi dalla corsa alla premiership, alla leadership, nonostante le pressioni che Grillo aveva fatto su di lui. Sì, è così, ma aspettiamo, insomma, io magari aspetterei perché esce dal cilindro così. Sì, ma perché tutta la giornata sono andate avanti prima che avrebbe parlato, ma con un discorso, insomma, concordato sostanzialmente, che doveva intrattenersi esclusivamente sui temi che lui, come dire, che gli competono come presidente della Commissione Vigilanza Rai. E poi infatti, invece, nel corso del pomeriggio è emerso che era nuovamente stato escluso dalla scaletta degli interventi. Ora, interpretiamo questo mancato invito ad intervenire di Fico come una sorta di punizione, come tu hai usato questa espressione, abbastanza verosimile, anche perché, diciamo, i volti noti nel Movimento 5 Stelle non sono moltissimi. Fico certamente è un personaggio di peso, insomma, è uno dei personaggi di peso del movimento, insieme appunto allo stesso Di Maio, che verrà domani consacrato candidato premier e quindi capo del movimento politico del Movimento 5 Stelle, che è stato questo l'oggetto poi dello scontro tra l'anima ortodossa, come tu appunto li hai definiti, e quelli che vengono definiti pragmatici. Sembra che siano divisi adesso tra ortodossi e pragmatici, queste sono le analisi, le categorizzazioni, poi non so. Quindi Di sì, Maio diciamo, e i suoi sostenitori sarebbero i pragmatici, insomma. Sì, diciamo che da questo punto di vista emerge ancora una volta, e cioè se uno deve sottolineare un aspetto certamente non felice del Movimento 5 Stelle, è quello della scarsa democrazia, nel senso che chi non condivide il verbo che di volta in volta viene recitato dal capo viene messo da parte. Insomma, l'abbiamo già visto in altre occasioni, insomma, quando uno si discosta viene messo a tacere. E questo non solo nel Movimento 5 Stelle, Barbara. Beh, insomma, alla fine, no? Beh, insomma, forse, diciamo forse che negli altri partiti ci fanno... Però mi sembra che gli altri partiti, insomma, ci fanno un po' più divertire, ecco, te lo devo dire da cronista politica, cioè insomma, gli scontri che nel PD non ne parliamo proprio, insomma, volano gli stracci, ma anche nella Lega, cioè abbiamo visto degli scontri forti in passato, anche recentemente, insomma. Nel Movimento 5 Stelle un po' di meno, probabilmente anche un fatto di, come dire, di timore, nel senso che è un partito giovane, no? Quindi bisogna tenere un po' le redini, dici. Si sta strutturando. Barbara, ora, sentiamo Grillo, l'avevo fatto sentire anche nell'incipit della trasmissione, che cosa ha detto ai giornalisti a margine appunto di questa festa di Rimini. Vogliamo aprire un po' la strada, parliamo tutti di giovani, i nostri giovani, contro i giovani ci sono, ed è bello guardare e proteggere. Ma ci sono, io ci sono, sono il padre, il papà ormai unico fondatore, sono lì, ci sono. Quindi si ufficializza o no, secondo te, Barbara, questo passo di lato che già aveva annunciato, cos'era, l'anno scorso, due anni fa, Grillo, lui adesso dice io ho 70 anni, sono anziano, posso essere il papà di tutti, avanti i giovani, è la svolta quindi? Sì, secondo me sì, con un grosso punto interrogativo, se Di Maio sarà all'altezza della svolta, perché questo è il vero punto interrogativo, ma credo che lo sia anche per lo stesso Grillo e per Casaleggio, che ha voluto fortemente, diciamo, l'abdicazione a favore di Di Maio, insomma, almeno questo è poi non essendoci un congresso pubblico, non è tutto è molto lasciato anche, no, alle voci raccolte tra gli aderenti del Movimento 5 Stelle, che naturalmente anche qui l'anonimato prevale, perché poi il timore di essere ritenuti eretici fa sì che appunto non ci sia un confronto pubblico, anche uno scontro pubblico, che ritengo che generalmente faccia sempre bene. Però per quanto riguarda Di Maio, io credo che un punto dirimente per il futuro di Di Maio, e forse a questo punto per il futuro anche del Movimento 5 Stelle, è la Sicilia. Cioè, Di Maio elezioni il 5 novembre, lo ricordo. Sì, perché Di Maio si è speso personalmente in quella campagna elettorale, ha voluto fortemente il candidato Cancellieri, quindi si è speso in prima persona, no? E quindi se il Movimento 5 Stelle non dovesse farcela a conquistare la prima regione, sarebbe per loro, insomma, sarebbe un candidato premier che parte un po' azzoppato, Di Maio. Quindi io credo che il voto siciliano, con tutti i problemi, anche lì ricordiamoci c'era stato tutto il caso delle firme false, con l'allontanamento di alcuni dell'ala anche lì ortodossa del movimento, in qualche modo possa essere una cartina di tornasole per verificare effettivamente anche la forza, proprio la forza di Di Maio all'interno del suo elettorato. Senti Barbara, invece sulla legge elettorale oggi è arrivato anche l'appello di Grasso, no? Il presidente del Senato, che ha detto serve una legge che spazzi via ciò che era rimasto in vigore dopo la sentenza della Corte, che non prospettano un sistema uniforme, cioè tutti quei residui che non prospettano questo sistema che sia uniforme. Dice è necessario avere una legge elettorale utile agli interessi dei cittadini e non dei singoli partiti. Vogliamo per esempio sentire che cosa dice Speranza di MDP. Che cosa chiede il governo? Ma noi in queste ore stiamo aprendo un'interlocuzione col governo. Chiediamo una svolta sulle politiche economiche e sociali. Crediamo che in questi anni sono stati commessi degli errori. La scelta non deve farla Speranza o altri, la scelta deve farla il governo, in particolar modo Gentiloni e Padoan devono decidere se hanno voglia di continuare con politiche sbagliate o di segnare una discontinuità significativa. E qui c'è il tentativo di vedere se c'è qualche punto di convergenza tra il PD e i fuoriusciti con Speranza, Bersani, di MDP. Diciamo che qui si inserisce un dato secondo me politico interessante e da sottolineare, cioè che cosa sta dicendo MDP? Sta già ponendo l'accento sulla manovra, ma D'Alema nei giorni scorsi ha detto sostanzialmente quella che è un'interpretazione che facciamo tutti, ovvero che MDP non accetterà mai questa legge elettorale e che se messa alle strette potrebbe anche far venir meno la maggioranza di governo. Un po' lo scontro è su questo. È chiaro che questa legge elettorale MDP la vive come una fortissima penalizzazione, perché ricordiamo che è una legge che la proposta, voglio dire, il cosiddetto Morrasatellum 2.0 è per collegi uninominali e quindi tendenzialmente i collegi uninominali favoriscono i partiti maggiori e non prevede il voto disgiunto, cioè non consente di poter votare un candidato uninominale che piace magari agli elettori di centrosinistra e votare una lista che quel candidato non appoggia, no? Quindi che cosa rischia MDP? Rischia che se ci sono dei candidati particolarmente forti del PD, quei candidati possano attrarre voti e anche voti in caso contrario sarebbero andati al partito di Bersani, e quindi loro la vivono come una forte penalizzazione. Su questo loro si giocano la sopravvivenza, senza contare il timore il tentativo da parte del PD, manifesto proprio, coinvolgere in questa partita Giuliano Pisapia, l'ex sindaco di Milano, che l'idea di capo invece, progressista, che non si capisce bene che intenzioni abbiano. Comunque sembra, allora, per il momento sembra che regga il patto in realtà con Bersani, però appunto la legge elettorale poi non vale solo per il caso del Partito Democratico, per il centro-sinistra, vale anche, cioè le leggi elettorali, imponendo le regole del gioco, poi si cambiano anche i giocatori in campo, insomma, cioè non è detto che se si decide di giocare una partita con regole diverse ci si deve attrezzare. Diciamo che in questa partita i partiti come MDP, che non vogliono assolutamente allearsi con un partito maggiore, in questo caso il PD, perché escludo che si possa alleare col centrodestra, i grillini non si alleano per definizione e quindi rimarrebbero isolati, mentre i partiti minori, che ne so, i centristi piuttosto che Fratelli d'Italia, hanno delle opportunità di alleanza, no? Da una parte o dall'altra, e quindi chi rimane da solo o è grande come 5 Stelle oppure rischia di fare una brutta fine. Barbara, ci sono alcuni messaggi invece che riguardano il centrodestra. Questo invece dice le cose anche nei partiti funzionano quando c'è un capo che comanda in modo assoluto e totale, il resto è solo gran caos senza concludere mai nulla nelle aziende, nei partiti e nella vita pubblica. Poi invece un altro ascoltatore, vediamo se riesco a dare una linea a questo messaggio di Stefano, mi pare molto articolato, dice: Berlusconi aveva bisogno di non cedere a Meloni e Salvini e insieme di nascondere la sua debolezza dietro qualcuno che potesse avere un po' di consenso, se non andrà a votare la darà vinta proprio a loro, che potranno fare il bello e il cattivo tempo indipendentemente da quello che potrebbe scegliere lei. Non so se si riferisce a me o a chi. Comunque sentiamo piuttosto Salvini a proposito della questione della leadership, che c'è ovviamente anche nel centrodestra, no? Con questo Berlusconi rinato a nuova vita. Sentiamo cosa dice Salvini su delle possibili primarie che lui chiede da tempo nel centrodestra. Io sono serenissimo, lascio i casini a Grillo, al PD, a Bersani. Chi farà il premier lo decidono gli italiani la domenica del voto. Sul programma abbiamo le idee chiarissime su come ridurre le tasse, su come tornare a proteggere i confini, difendere le nostre aziende, riformare la scuola, rilanciare il lavoro non finto di Renzi, ma il lavoro quello serio, quello stabile, quello a tempo indeterminato. E quindi non vedo l'ora di andare a votare, tutto il resto mi sfiora. Quindi per chiudere, Barbara, visto che siamo in chiusura, lui praticamente dice, cioè, se queste primarie non si fanno perché Berlusconi non le vuol fare, si faranno direttamente nelle urne quando si andrà a votare, quello più votato, immagino lui sottintenda. Ma diciamo che anche qui è tutto un gioco di finzioni, perché intanto la Costituzione non è cambiata, il Premier lo decide il Capo dello Stato. E sulla base di che cosa lo decide il Capo dello Stato, solitamente un Presidente del Consiglio? Sulla base delle possibilità che si crei attorno a lui una maggioranza di governo. Ora a me sembra, così a bocce ferme, se guardando dall'esterno, che né Renzi, né Salvini, né tantomeno Berlusconi abbiano la possibilità di arrivare al governo, a meno che davvero non ci sia un risultato elettorale clamoroso, in quanto dovendo andare a governi di coalizione, no? Cioè cercare alleati per formare una maggioranza, perché come sappiamo il nostro sistema politico è diviso in tre, centrodestra, centrosinistra, Movimento 5 Stelle. Quindi dovendosi creare delle alleanze è inevitabile che si arriverà a un compromesso. Ora io dubito, facciamo l'esempio della grande coalizione di cui si parla, il famoso inciucio, ma secondo voi è pensabile che Forza Italia accetterebbe di entrare in una maggioranza guidata da Renzi, su cui fino a oggi hanno detto le cose più nefaste, oppure o viceversa, dici, o che, certo, che sia Renzi, ma, che quindi sì, cioè, quindi sicuramente sarà una figura alla Gentiloni, ecco, mi viene da dire di questo. Bene. Il prossimo premier sarà una figura alla Gentiloni, e chissà che non sia lo stesso Gentiloni. E restiamo su questa preveggenza di Barbara Fiammeri, così ci lasciamo, cara Barbara, buon fine settimana. Anche a voi, buonasera. Ciao Barbara. Poi abbiamo molte altre cose da raccontarci, però tra poco 349-238-6666 se volete scrivere SMS o WhatsApp, oppure c'è la pagina Facebook di Effetto Notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte in questo momento, siete al posto giusto, nel momento giusto, e anche con la conduttrice giusta, se volete, Roberta Giordano con voi. Abbiamo parlato molto di politica italiana, adesso invece ci spostiamo sulla politica europea e, diciamo, relativa alla Gran Bretagna, ma che ovviamente coinvolge tutta l'Europa, perché parliamo del divorzio già votato da parte dei britannici, ma che adesso deve seguire un suo percorso. Vi ricordo, per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il 349-238-6666, che è il numero per WhatsApp ed SMS. E vi do anche una notizia arrivata in questi istanti a proposito dell'uragano Maria, che sta colpendo anche il Centro America. La diga di Guayataca, Porto Rico, ha ceduto, sta provocando alluvioni estremamente pericolose, in particolare in due cittadine lungo il fiume, lo ha annunciato il servizio meteo degli Stati Uniti, citato dalla BBC, aggiungendo che è in corso l'evacuazione della popolazione di due centri abitati lungo il fiume. Il cedimento è avvenuto alle 21:10 ora italiana, allagando subito due piccole città, Isabella e Quebradillas. Adesso quindi passiamo alle altre notizie, le più importanti sono queste. Brexit, di cui parleremo tra pochissimo, con la prima ministra britannica May, che ha parlato a Firenze aprendo l'Unione Europea e chiedendo 2 anni per dirsi addio. Movimento 5 Stelle, ne abbiamo parlato con la nostra commentatrice, al via la kermesse oggi a Rimini, si parlerà di Rai, ma pare che Roberto Fico non sarà sul palco, ma non è ancora sicuro, e Grillo dice si apre una nuova stagione, io sarò il papà di tutti, avanti i giovani. Crisi nordcoreana, Kim insulta Trump, minaccia di fare il test della bomba H nel Pacifico, il presidente americano lo minaccia a sua volta, dice sarà messo alla prova come non è mai successo prima. L'omicidio di Gloria Rosbock, sono la sentenza di condanna di 30 anni all'ex allievo accusato del delitto, 19 il presunto complice, la madre rinviata a giudizio. E poi veleni, PFAS nell'acqua, scontro tra Veneto e governo sui limiti tollerabili, poi parleremo anche di questo. Sanremo, Claudio Baglioni direttore artistico e verso la conduzione del festival. Quindi con il nostro Sergio Nava, ciao Sergio. Ciao Roberta. Parliamo di Brexit, la prima ministra britannica May oggi ha scelto Firenze per questo suo discorso, perché lei ha detto culla del Rinascimento, il messaggio del Rinascimento alla fine era questa apertura mentale verso le nuove opportunità, verso il futuro, senza chiusure eccetera, e lei insomma l'ha voluto interpretare a suo modo, così dicendo che il futuro della Gran Bretagna è un futuro radioso, che la Gran Bretagna intende uscire dall'Unione Europea ma non dall'Europa, e poi ha detto detto che garantirà i diritti dei cittadini europei in Gran Bretagna e in particolare agli italiani, no? Ha detto restate italiani. Vogliamo sentire questo passaggio in inglese della May sugli italiani? Sentiamo. I want to repeat to the 600,000 Italians in the UK and indeed to all EU citizens who have made their lives in our country that we want you to stay, we value you and we thank you for your contribution to our national life. Siete preziosi e vi ringraziamo per il vostro contributo alla nostra vita nazionale. Ma è stata così dolce nei confronti. E queste diciamo sono tutte le parole di circostanza. No, se teniamo conto che l'intera campagna Brexit fu una campagna con forti venature, se vogliamo, purtroppo. Sbattiamo fuori i cittadini. Esatto, cioè non facciamoli venire perché ci stanno invadendo. Arrivano 300.000 all'anno, non di italiani, di europei. E noi abbiamo pure una quota consistente tra i paesi dell'Europa occidentale, diciamo che sono parole sicuramente dolci. Beh, comunque, al di là delle battute, quella notizia, anche se girava nell'aria da diversi giorni, è che la Gran Bretagna ha ufficializzato che tra il 2019 e il 2021 sostanzialmente è disposta a fare un periodo di transizione per ammorbidire l'uscita all'Unione Europea. Quindi, infatti, qualche giornalista inglese giustamente diceva: come la venderete ora ai settori più anti-europei della società che pensavano di uscire il giorno dopo dall'Europa e ci saranno di fatto in qualche modo fino al 2021? Perché quello che propone la May è di tenere, detto in termini almeno per quanto si può desumere, perché poi non è stata così dettagliata, anche per tenersi delle carte a giocare nei negoziati, riprendono tra l'altro a lunedì. Da quanto si può desumere, lei dice: nei due anni usciamo all'Europa, però a livello commerciale continuiamo a sottostare alle stesse normative, regolamenti, in modo da ammorbidire l'uscita. Continua la libera circolazione, però chiederemo ai cittadini che vengono qui di registrarsi, non sarà quindi più un vero e proprio una libera circolazione come prima, e pagheremo, si dice, lei non l'ha detto, però si dice sui 20 miliardi di euro, onorando i nostri impegni finanziari in quei due anni. Tutto il resto poi è da vedere, perché poi lei dice per il dopo, quindi dal 2021 in poi, siamo creativi, cerchiamo di essere creativi e costruiamo un modello di cooperazione tra Europa e Gran Bretagna diverso da quello esistente. Per esempio col Canada o con la Norvegia. Esatto, si è parlato molto di modello canadese, modello norvegese, poi lo spazio economico europeo, modello svizzero. Lei dice: nessuno di facciamo questi qualcosa di inventiamo diverso, di più creativo. Poi andando a scavare, l'ho detto lei stessa, evitando magari dazi e tariffe, ecco, se forse possiamo. Questo è la creatività che cercavo. Ecco. Va bene. E quindi sostanzialmente, come dire, guardando le reazioni europee ora, l'Europa, il capo negoziatore europeo Michel Barnier e anche altri esponenti politici europei hanno detto: beh, il tono è cambiato, però ora aspettiamo i dettagli, ora cerchiamo di capire cosa si intende. E viene ribadito ancora una volta: attenzione, l'Europa non cambia posizione, prima bisogna chiudere i capitoli di soldi, il conto del divorzio, perché è un divorzio. Diritti ai cittadini toccati dalla May con buone aperture, e confine nordirlandese, dove invece la May è stata molto più vaga oggi. Poi guardiamo al dopo. Lei invece, l'atteggiamento britannico è sempre quello di mettere un po' tutto assieme, cioè chiudiamo, facciamo un po' di transizione e contemporaneamente già pensiamo a quello che faremo dopo. Attenzione anche a una cosa: la May è stata abbastanza chiara di fronte alla domanda, ma lei ripete quanto detto a gennaio, che nessun accordo è meglio di un cattivo accordo. Lei ha detto sì, quindi oggi c'è stato lo zuccherino. Poi bisogna vedere. Senti, c'è un ascoltatore, chiudiamo con lui, Lino, che scrive, parafrasando la canzone Firenze di Ivan Graziani, non so se la ricordi, molto bella, dice: Firenze, lo sai, non è riuscita a cambiarla. E quindi vedremo come ammorbidita, ma è un ammorbidimento tattico, così, secondo me. Apparente. Poi vedremo cosa succederà nei negoziati che riprendono, ricordiamo, lunedì. Grazie Sergio Nava. Grazie a te. Ciao, ciao caro Sergio, viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E un'altra notizia importante, cari ascoltatori, è che nel fine settimana ci sono le elezioni politiche in Germania, domenica 24. È ormai un esito scontato, Raffaella Calandra, la nostra Raffaella Berlino. Ciao Raffaella. Ciao Roberta, scontato forse nell'esito finale, ma questa coda di campagna elettorale sta conservando e rivelando non poche sorprese, a cominciare, ormai lo stiamo raccontando, dall'avanzata dell'estrema destra dell'AfD, ma anche a cominciare dai fischi che questa sera, nell'ultimo giorno e nell'ultimo comizio della sua lunga corsa verso il quarto mandato consecutivo da cancelliera, Angela Merkel ha ricevuto nella chiusura della sua campagna elettorale a Monaco. Un nutrito gruppo l'ha contestata fortemente nel suo discorso, soprattutto nei passaggi in cui voleva ripetere che quello che è successo nel 2015, quando 1 milione di profughi è stato accolto appunto in Germania, non si sarebbe appunto ripetuto, ma la platea l'ha fischiata fortemente e lei è stata costretta ad alzare la voce. Contemporaneamente qui a Berlino, Gendarme Max era il candidato dell'SPD, Martin Schulz, che si è scagliato soprattutto contro appunto l'estrema destra di Alternative für Deutschland con un appello al voto e li ha definiti becchini della democrazia. Questa sarà la principale incognita di questa tornata elettorale che appunto nell'esito finale sembra scontato, anche se bisognerà capire le percentuali anche per definire quelle che saranno le alleanze successive appunto della Merkel, ma la percentuale di voto con cui l'estrema destra riuscirà a pare ad entrare per la prima volta appunto al Bundestag potrebbe essere la vera e principale incognita di questa elezione, che alcuni invece, come il Wall Street Journal, fino adesso aveva definito una cura per l'insonnia, tanto era stata diciamo all'insegna del fair play e della correttezza oltre che del risultato scontato. Però ecco, scontato in realtà sembra esserci fino in fondo nulla, per cui staremo a vedere in queste ultime ore di campagna elettorale ecco che cosa succederà. Grazie Raffaella Calandra, e poi Radio 24 naturalmente con la nostra Raffaella da Berlino seguirà le elezioni nel fine settimana. Grazie Raffaella, buon lavoro a Berlino. Adesso invece parliamo di queste sostanze a rischio per la salute, le PFAS, che è un acronimo che indica le cosiddette sostanze perfluoroalchiliche, ovvero le sostanze che servono a rendere impermeabili all'acqua e ai grassi vari capi di abbigliamento, per fabbricare le pellicole antiaderenti delle padelle, la carta da pizza, anche la sciolina per gli sci, e sono pare una minaccia per la salute. Su questo tema è nato uno scontro tra la Regione Veneto e il Ministero della Salute, con Zaia, presidente della Regione Veneto, che denuncia la diffusa contaminazione ambientale che avvelena le falde acquifere del Veneto occidentale. Non è solo il Veneto in realtà a essere inquinato, perché anche in parte Lombardia, Piemonte e Toscana, però il Veneto conosce diciamo quello che è il problema un po' più consistente, cioè l'azienda Miteni di Trissino, in provincia di Vicenza. Per questa azienda è stato fatto uno screening dei 14enni residenti nella zona diciamo rossa, che conferma la presenza di questa sostanza chimica nel loro sangue. Allora, di che sostanza effettivamente si tratta? È davvero così tossica? Zaia ha detto: se il governo non si muove, la regione stabilirà da sola una drastica riduzione di quelli che sono i limiti tollerabili, anche se la ministra Lorenzin ha replicato dicendo invece noi ce ne stiamo occupando da tempo di questa cosa. Il Ministero dell'Ambiente anche ha ribadito che sono stati investiti 100 milioni per affrontare il problema. Ne voglio parlare con la professoressa Silvia Migliaccio, che è specialista di endocrinologia e malattie metaboliche del Dipartimento di Fisiopatologia Medica dell'Università La Sapienza di Roma. Professoressa, buonasera. Buonasera e grazie della disponibilità. Ci parla di queste sostanze e dell'effettiva nocività? Sì, come lei ha già detto, appunto il PFAS, come vengono definiti, sono sostanze appunto perfluoroalchiliche che vengono spesso trovate in quanto sono residui di preparazioni industriali. Il problema qual è di queste sostanze? Che si vengono a ritrovare nelle falde acquifere, come appunto lei ha menzionato per esempio nel Veneto, e quindi il problema è che queste sostanze rientrano nella catena alimentare, in quanto le falde acquifere naturalmente vanno ad allargarsi a quelli che sono i territori, e quindi possono naturalmente essere ritrovate in quelli che sono prodotti agricoli, anche animali, e quindi attraverso la catena alimentare rientrare appunto, contaminare quello che è l'organismo umano. Infatti queste sostanze vengono definite appunto contaminanti ambientali. Qual è naturalmente la problematica? Qual è non un'esposizione, a meno che non sia un'esposizione molto elevata, ma un'esposizione cronica, cioè l'esposizione dell'organismo umano. Naturalmente maggiori sono le problematiche negli organismi in via di sviluppo, quindi bambini e adolescenti, e quindi la cronicità di questa esposizione. Quali sono le problematiche? Perché questi contaminanti si ritrovano nell'ambiente e vengono definiti interferenti endocrini spesso, cioè vanno ad interagire, ad alterare quella che può essere la normale funzione degli ormoni e possono naturalmente andare ad alterare quella che è la funzione biologica, fisiologica delle cellule dell'organismo. Quindi le problematiche che possono creare sono in un certo senso vaste, molteplici, nel senso che l'esposizione dell'organismo umano a queste sostanze è stata spesso correlata a quelle che sono per esempio problematiche tumorali. Quindi esatto. Professoressa, adesso che ci dobbiamo lasciare tra poco, è consigliabile davvero fare degli studi seri e cercare di abbassare il più possibile il livello di tollerabilità, no, di queste sostanze? Assolutamente, anche perché possono, a prescindere da quelle che sono le problematiche tumorali, che sono quelle che molto spesso più preoccupano, no, nell'immaginario, però naturalmente queste sostanze possono andare a interferire anche con quelle che sono le normali funzioni degli ormoni e quindi l'attività di tutte le cellule. Certo, quindi è chiaro che si stanno facendo studi in tutto il mondo, ci sono diversi gruppi, anche il nostro gruppo appunto si occupa di queste problematiche proprio per cercare di definire e comprendere quelle che sono davvero i rischi e anche i meccanismi, perché naturalmente questo è fondamentale. Grazie professoressa Silvia Migliaccio, grazie anche di questa sintesi e di questa chiarezza e buon lavoro. Noi ci risentiamo brevemente alle 22.